sono cresciuto portando rispetto. Capito che ho detto, il più piccolo in compagnia. Ho preso prima il concetto. Certa gente non sa cosa sia. Sogno di andarmene via, pieno di falsi, bigiotteria. È una gara al più scorretto. Lo sanno in Francia, lo sanno in Francia, lo sanno in Albania. La prima regola di strada è non parlare con la polizia. Per la via mi sento a casa mia. Conosco tutti, sia belli che brutti, amici o farabutti di diversa etnia. La polvere bianca qua non è zucchero. In quanti l'assumono io non l'assumerò. Quando un problema non lo risolvo lo supero. Hanno insegnato ad arrangiarmi, non distrarmi, picchiarmi solo se necessario, sempre senza armi. A darmi pari vuoi aiutarmi, scompari devi abbandonarmi. Circondato da animali un safari, storie d'affari non ci guadagni. Ai domiciliari del pericolo ignari, sbagli involontari, sbatti necessari. Fare di soldi tutti mercenari, a lavoro precari cosa devo aspettarmi? È il suono delle strade, cambiano i posti ma il succo è sempre uguale. Danno lezioni, schiaffi come un padre, insegnano meglio di qualche madre. Street of war, le rue, strade del mondo, rughe de bord, voci del mondo unite dal flow. Street of war, le rue, strade del mondo, rughe de bord, voci del mondo unite dal flow. Tout mon gars des HLM, comme on vit sans acheter chez H&M. Avec un steak caché à partager avec le petit frère. Les larmes des mères arrosent notre cœur comme la pluie dans le désert. Quand on sort de tes rêves, dans le reste de la rue il n'y a pas de dessert. Il faut niquer ces fils de pute, qu'attend seulement de voir ma chute. Pour le buzz ils ont baissé leur calbute pour se faire baiser dans le cul. Moi je tiens bien mon rôle, j'ai choisi ma rôle. On suit les protocoles, depuis les couloirs d'école. Waita, waita, feu rouge dans le TK, en pleine vitesse sur une alpha. Dans le sale comme des cafards, je vois les bâtards sur le radar. Appelle tes camarades, moi j'appellerai ma brigade. Mauvaise histoire dans les apparts, assez de haine pour les abattre. W, pendant ces années on a perdu des potes, perdu des potes. On a fait du sale et parlé en code, parlé en code. Déçu nos paroles, commis des fautes, commis des fautes. Mais l'on va niquer la vie, maintenant que les choses. È il suono delle strade, cambiano i posti ma il succo è sempre uguale. Danno lezioni, schiaffi come un padre, insegnano meglio di qualche madre. Street of war, le rue, le rue, monde, strade del mondo, rue de bord, voci del mondo unite dal flow. Street of war, le rue, le rue, monde, strade del mondo, rue de bord, voci del mondo unite dal flow. In Siena on the top, se tu c'è una te buon John. Reti mal di mal, se su ne mal, si am gari po tu sta man. Me bo jo, shans ke jo, le na fjo se ti nuk i zo. Lodhe sa lodhe sh po prap nuk po ndjer, ndrit jo, as një gjo. Qunat po dalim në mjetet patrona. Venet i kalim si kur në venet tona. Ti thu diqka, në gjona ma vona. Se son te kam dale dhe nuk kam koda. Duke shumë i but prej në fyrës, sa her që më shet për bol. Tikën edhe në gjyra fyrës. Tikën i për këtipin, kuk s'jan. Rëkur vetën pa nusën, tiron. Shëtë rrat i rrat dhe vet jom. Lyp shenë që direkten, rratësam. Tjedim qysh vjetë bëj seri. Hopi bagajin e vjetë merkeri. Tikën e mbret si dashi deri. Mirë se vini drejtim ti feri. È il suono delle strade, cambiano i posti ma il succo è sempre uguale. Danno lezioni, schiaffi come un padre, insegnano meglio di qualche madre. Street of war, le rue, le rue, monde, strade del mondo, rue de bord, voci del mondo unite dal flow. Street of war, le rue, le rue, monde, strade del mondo, rue de bord, voci del mondo unite dal flow.